mi consola sapere che c'è, di nascosto da sguardi indiscreti, un onesto come me. Ma qui attorno si muore di sete e mi fermo a capire perché si nascondono menti malate dietro un mondo immobile. Ti prego amore, faccia in fretta il tuo grano, perché dobbiamo partire e non possiamo aspettare. Il nostro treno viaggia e va con tuo mano, che non vuole fuggire, ma solo andare lontano da questa siccità. Questa siccità, questa siccità. Quante ruvide lingue scolpiscono i muri con le loro stupide antichità, ed offendono l'intelligenza dove c'è. Come vive un uomo la sua libertà, e la gente parlerà.